Ciao a tutti carissimi ascoltatori di Radio Big World e benvenuti in una nuova puntata dei Monologhi Esteriori. È sempre Elisa Elena Carollo che vi parla e anche oggi vi porterò un altro monologo teatrale per farvi capire che il teatro non è così distante dalla vita quotidiana come potreste pensare. Dato che il 20 febbraio è stata la giornata della lingua madre, mi è venuto in mente di fare qualcosa di un po' particolare. Sì, io sono italiana e la mia lingua madre tecnicamente è l'italiano. Però bisogna anche dire che l'Italia è un paese che ha delle forti connotazioni regionali. La cultura, il background di un piemontese non è lo stesso di quello di un siciliano o di un napoletano. Quindi sì, possiamo dire che la mia lingua madre è l'italiano, ma non solo, perché la mia lingua madre è anche il dialetto veneto. Non lo si può negare dato che mia madre e mio padre mi parlano continuamente in dialetto veneto e io sono così abituata che non mi accorgo nemmeno della differenza tra quando mi stanno parlando in dialetto e quando mi stanno parlando in italiano. Non ho studiato queste cose e non so se effettivamente i dialetti si possano considerare delle lingue, quali possano essere considerati delle lingue. Però ho letto di uno studio che diceva che i bambini abituati a parlare dialetto, oltre alla propria lingua madre, hanno un cervello molto simile a quello dei bambini cresciuti bilingue, quindi ad esempio parlando italiano e inglese, o inglese e francese. E poi forse non sarà una lingua a tutti gli effetti, però ci sono delle parole che mi viene istintivamente da pensare in dialetto. Ci sono dei concetti che non riesco ad esprimere nello stesso modo in italiano. Per questo motivo ho pensato di portarvi un testo che non è esattamente nel mio dialetto. Lo potrete capire anche se venite da un'altra parte dell'Italia. Però è tratto da un libro di uno scrittore che veniva dalla mia stessa zona e che l'ha ambientato proprio nel suo paese natale. Credo che avrete sentito parlare di Libera Nossa Malo di Luigi Meneghello. Il titolo in latino vuol dire liberaci dal male ed è un verso del Padre Nostro, ma non solo, perché Malo è un paesino in provincia di Vicenza, vicinissimo al mio paese natale, tra l'altro. E dato che una volta tutti recitavano le preghiere e le litanie in latino, ma nessuno lo conosceva, questo credo che abbia dato adito a qualche equivoco. Secondo me c'era veramente qualcuno che pensava che volesse dire liberaci a Malo. In questo libro Meneghello racconta di tantissimi episodi della sua infanzia e ve ne voglio leggere uno in cui parla di questo bambino che giocava con lui e che era un foresto, cioè uno che veniva da una zona diversa, che non parlava lo stesso dialetto. Nel cortile della scuola si svolgevano giochi parte spontanei, parte promossi da organizzatori come Capotta, figlio dell'esattore nuovo. Era un foresto e in casa parlavano italiano. Con noi adottò però subito il nostro dialetto. Ma non era in grado di distinguere tra l'uso fine del centro e quello rozzo delle campagne e delle colline. Parlava con un vocione rauco insieme e metallico, come una tromba militare. Era chiassoso, allegro, strambo. Sempre a suo agio quando poteva far rumore, Capotta andava attorno ad arruolar gente, soverchiando tutti coi suoi gridi. Riproduceva alla perfezione la cantilena rituale, ma con le goffe dentali della gente del monte. «Chi è che duga? Chi è che duga?» Sorridevamo del foresto, incapace di dire chi sé, ma con una punta di ammirazione. E dugavamo. Le dolci fricative del paese sono rozze stoppate sulle colline. A Malo si dugava al feo. Il dì dei dughi era dobia, quando che la mare metteva la sale dentro la latte e i bambini già a casa da scuola. Dugare ha un suono aspro e duro. Ma che anche le bambine dugassero al feo, le bambine con una bambola di stracci, schive e gentili. Capotta, scomparso con la guerra, ricomparve in paese nel dopoguerra, giovanotto. apparteneva a una compagnia drammatica itinerante e andammo tutti a vedere la rappresentazione con curiosità. Chissà che parte farà il Capotta? Era un pezzo forte del teatro di provincia, l'urlo, imperniato su quel raccapricciante urlo dietro le quinte che atterrisce più volte il pubblico durante l'azione. Capotta non apparve in scena, faceva appunto l'urlo, dietro le quinte, e lo faceva magnificamente. Si sentiva che, a differenza di noi, continuava a dugare. In questo testo vengono messe in evidenza appunto tutte le differenze con i foresti. Quelli che in casa parlano italiano, che è una cosa fuori dal mondo per quelli che nei paesini sono abituati a parlare sempre in dialetto, soprattutto in famiglia. In italiano si parlava forse col professore a scuola o col sindaco. Questo bambino, appunto, per integrarsi, tenta di parlare dialetto. Però non gli riesce proprio bene, perché non è capace di dire chi sé e dice l'italiano chi è, però gli altri bambini capiscono lo stesso e chiudono un occhio. E invece di dire zugare, che ovviamente è il verbo giocare, dice dugare con la d, perché a quanto pare il suono fricativo proprio non gli riesce. E Meneghello ricorda che questa differenza è quella tra Malo e il Feo, perché al Feo, questa località sulle colline, si parla appunto con la d. Si dice Dobia invece che Zobia, che sarebbe il giovedì. E si hanno questi modi di dire un po' strani e arcaici di chiamare la latte il latte e la sale il sale. È evidente come anche tra pochi chilometri il dialetto cambia, ci sono delle varianti. E infatti l'ho visto anch'io nella mia vita, perché ci sono parole che vengono dette in modo leggermente diverso tra il centro e le campagne. Mia mamma e mio papà sono nati e hanno sempre vissuto nello stesso paesino, eppure mio papà, che è nato alle campagne, dice alcune cose in modo leggermente diverso, anche se saranno quanti chilometri? 1,5? 2? Non c'è tutta questa distanza. Pensiamo quando c'è magari una montagna nel mezzo e tutte le differenze che ci sono tra la valle di qua e la valle di là. È una cosa fantastica, secondo me, che ci siano tutte queste varianti in così poco spazio. È una ricchezza infinita. E ok, capisco che bisogna parlare italiano, che bisogna comunicare tutti quanti, però anche perdere la ricchezza delle tradizioni locali, del proprio dialetto, mi sembra brutto. Quindi per questa giornata della lingua madre vi voglio invitare a non dimenticare il vostro dialetto e a recuperare anche magari qualche parola che si dice nelle vostre zone e che potrebbe andare dimenticata. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se volete seguirmi anche la settimana prossima, sarò sempre qui alle 20:30 su Radio Big World per quella che sarà l'ultima puntata del podcast. E spero che sarà un gran finale. Ci risentiamo presto, ciao a tutti!